Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, prima puntata di Focus Economia della settimana. Buon anno, visto che torno in conduzione. Buon anno a tutti voi. Torno in conduzione, ma il programma è stato egregiamente condotto da Deborah Rosciani la settimana scorsa, Simone Spezia la settimana precedente. Dove eravamo rimasti? Vedo già molti messaggi su Unicredit, ma anche sulla lotta all'evasione, sull'operazione Cortina. Cerchiamo anche di riprendere alcuni di questi temi. Partiamo subito da Unicredit, che perde oggi il 15%, in questo momento è 80%. Ne parleremo ampiamente alle 18.10, mercato chiuso. Una cosa la voglio dire, attenzione, perché il prezzo offerto per l'aumento di capitale è un prezzo del 43% inferiore al prezzo medio ponderato dopo che il titolo aveva staccato la cedola. E quando tu offri un prezzo del genere è chiaro che il mercato ne prende subito la mira, e infatti ha abbassato il valore del titolo prima ancora che scattasse l'aumento di capitale. È, tra virgolette, non voglio iniziare l'anno subito con polemiche, normale che se c'è un aumento di capitale con uno sconto così alto il titolo si comporti di conseguenza. La cosa interessante, e ne parleremo più avanti, come ricordava Antonella Olivieri sul Sole 24 Ore di domenica in una bellissima lettera ai risparmiatori, è quello che può essere il guadagno potenziale per gli azionisti di Unicredit, quelli che già avevano le azioni di Unicredit, perché nel piano che porta all'aumento di capitale è previsto anche un rendimento del 15%, cioè utile del 15% nei prossimi anni. E andremo a ragionare perché è sbagliato, lo dico, fermo restando che appunto il titolo vale 2,20 euro, e ha perso praticamente la settimana scorsa il 37% del suo valore, e con questo siamo a un calo del 45% del valore del titolo, anche che sfiora quasi il 50 a seconda di quando si prende riferimento il titolo. C'è chi infatti oggi alcune agenzie battono calo fino al 60% del valore del titolo. Dire che semplicemente quando c'è un aumento di capitale di 10 miliardi, in realtà sono 7 miliardi e mezzo quelli veri e propri di queste entità, che si sono bruciati semplicemente risparmi, non è corretto da un punto di vista finanziario. Che poi l'aumento sia servito e servirà a riportare il core tier, insomma le variabili, l'elemento di riferimento sul patrimonio rispetto a quelli che poi sono anche gli impieghi a un livello del 9%, quindi un livello più che buono, questo è chiaro. Ma insomma, non confondiamo le due cose. Quando c'è un aumento di capitale di questo tipo è ovvio che il valore del titolo si posiziona a quello che è il valore delle azioni offerte. Il valore delle azioni offerte era del 43% inferiore rispetto al prezzo teorico dopo lo stacco della cedola. Questo per quello che riguarda Unicredit. Parleremo anche della lotta all'evasione fiscale. A mio avviso, ma di borsa ci capisco poco, oggi è più tra virgolette preoccupante o sorprendente il calo del Monte dei Paschi, meno 12% a 20 centesimi di euro per azione, Mediobanca meno 7%, Fiat meno 5,80, Banco Popolare meno 4,50, Popolare di Milano meno 3,60, Ubibanca meno 3,5, e poi continuando col mondo bancario, Intesa San Paolo perde il 2,30, la Popolare Emilia Romagna il 2%. Chi guadagna? Saipem il 2,20, Luxottica l'1,15, Terna lo 0,80%. La borsa complessivamente perde l'1,60 a Milano, che comunque è la borsa peggiore, nel senso che Francoforte perde l'1%, Parigi lo 0,60, Londra lo 0,60, questa mattina Tokyo era chiusa, mentre il Dow Jones perde lo 0,15%. L'euro sempre debole relativamente, a 1,27 e 28 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora subito le altre notizie in breve. I temi di cui tratteremo oggi sono come sempre quelli legati all'attualità e alla cronaca, quindi il vertice tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, e ancora per quello che la vicenda Unicredit, la vicenda diciamo dell'operazione Cortina, l'operazione anti-evasore, e ancora altri temi che stanno spuntando in questi giorni. Subito le notizie. Vedo che il nuovo anno da alcuni non ha portato così. Un sentimento migliore. Molti contestano quello che ho appena detto sull'obiettivo di Unicredito. Allora, attenzione: nel piano che Unicredito ha lanciato con l'aumento di capitale è previsto un rendimento dividend yield delle nuove azioni calcolato sul prezzo dell'offerta, quindi a 1,94 euro è il valore dell'aumento del capitale, l'azione vale ancora 2,20 euro, per cui se tanto viene a tanto si sposterà a 1,94 euro. Se tu fai un aumento di capitale e offri nuove azioni a 1,94 euro, è chiaro che chi le aveva a 5-6 euro le vende fino a 1,94 euro. Però quello che è previsto nel piano di Unicredito è un guadagno attraverso il dividendo del 15% nel 2013 e del 22% nel 2015. Questo è l'obiettivo complessivo del piano. Adesso abbiate nemmeno un'ora di pazienza e ne parleremo con la stessa Antonella Olivieri. Su quanto ha perso Unicredito dipende da cosa prende come riferimento, questo semplicemente detto, e cioè meno 37% se vai indietro sul valore di borsa può arrivare a un meno 60%. È chiaro che insomma rispetto a diciamo al periodo prenatalizio il calo è, e quindi al riferimento più lontano che possiamo prendere, è del 60%, il calo di oggi è del 15,90, tutto qui. Andiamo avanti con i mercati, le materie prime, l'oro è a 1618 dollari l'once, il petrolio è stabile a 101 dollari al barile. Quello che purtroppo fa arrabbiare sono la raffica di rincari per la benzina, tutti avvenuti nel fine settimana, tutti i marchi tra l'altro in Italia. Il nuovo picco è a 1,747 euro nella media nazionale. La benzina, mi riferisco chiaramente alla benzina, 1,813 euro in alcuni impianti del centro Italia. Per il diesel si arriva a 1,707 euro e addirittura a 1,733 euro per il diesel nel nostro sud. Il presidente della Banca Centrale Svizzera, Philipp Hildebrand, si è dimesso oggi, la notizia era assolutamente nell'aria. È stato travolto da uno scandalo emerso su alcune transazioni private in valuta straniera effettuate da lui e la moglie, essendo il presidente della Banca Centrale Svizzera. Tutti si attendevano che oggi, come poi ha fatto, formalizzasse le dimissioni. Veniamo invece all'andamento dei debiti dell'area euro. Vedo che molti ascoltatori mi segnalano che a Linate i tassisti non stanno caricando i clienti. Penso che sia un'agitazione spontanea, come già abbiamo avuto modo di denunciare. Leggo però gli sms che arrivano al 349-238-6666. Oggi c'era un incontro importante per i tassisti per quello che riguarda il tema delle liberalizzazioni. Vabbè, io spero che di tutto si può discutere. Ho sempre detto che non è dalla liberalizzazione dei taxi che arriverà la ripresa economica, però insomma fare lo sciopero o il blocco selvaggio, questo no. Diciamo i debiti. Allora, lo spread italiano con il Bund tedesco è risalito a 525 punti. Il rendimento del BTP a 10 anni è al 7,1%, un livello assolutamente insostenibile e inaccettabile. Ma attenzione, oltre alla tuttora sfiducia sull'Italia o comunque un mercato pessimista sul debito italiano e del debito spagnolo, c'è anche un effetto in qualche modo opposto, ossia sta calando ripetutamente il rendimento delle obbligazioni tedesche. Oggi la Germania ha messo all'asta un bot a 6 mesi, un bund a 6 mesi, e il tasso è sotto lo zero, -0,01%. La domanda è comunque due volte superiore all'offerta. In questo momento vuol dire che alla Germania conviene finanziarsi, perché conviene di più trovare soldi sul mercato che non usare i soldi propri. Quando tu hai rendimenti negativi, questo vuol dire, e si può dire tranquillamente, che la Germania in questo momento è l'unico paese che si sta avvantaggiando della crisi dell'euro, che ne dica dell'attacco a Italia, Francia, a Italia, Spagna, anche un po' Francia, per non parlare di Grecia e Portogallo. La politica italiana: il ministro del welfare Elsa Fornero ha avviato oggi incontri separati con le parti sociali, quindi dopo la CGIL anche la CISL e UIL, sulla riforma del mercato del lavoro. Ieri il Presidente del Consiglio Mario Monti ha annunciato la fase 2 dell'azione del governo, lotta all'evasione fiscale, le liberalizzazioni, e poi ha chiesto un disarmo multilaterale di tutte le corporazioni. Sentiamo questo passaggio di Monti ieri nel programma di Fabio Fazio sull'articolo 18. L'atteggiamento mentale è quello di considerare che niente debba essere tabù in una discussione tra forze mature, civili e interessate, come i sindacati lo sono, come il mondo produttivo delle imprese lo è e come il governo lo è al futuro del paese. In passato queste materie sono state molto dominate dal diritto del lavoro, da certi simboli che sono anche importanti, ma siamo in una fase in cui abbiamo disperato bisogno non di simboli, ma di lavoro per i giovani e di lavoro non precario, e quindi sarà tutta un'impostazione che speriamo di condurre con il pieno accordo di tutti i sindacati, rivolta a vedere non solo le enunciazioni di principio, ma anche e direi soprattutto i prevedibili effetti economici sulla competitività e sulla possibilità di creare dei veri e durevoli posti di lavoro. Allora, intanto mi confermano gli ascoltatori che i tassisti a Linate non stanno caricando i passeggeri, e anche la stazione centrale, 200 auto si sono fermate all'aeroporto e hanno rifiutato di caricare i passeggeri. L'agitazione si è conclusa. Ripeto, lo sciopero è un diritto, ci mancherebbe che non lo possono fare i tassisti, però non, cioè, uno lo annuncia, non si fa arrivare i passeggeri in Linate e poi così si blocca tutto. Si annuncia, si bloccano i taxi, si fa una lotta. Io personalmente non la condivido in quelle forme, ma va tutto bene, basta che venga fatta nel rispetto anche del cliente, eh. Il disarmo, visto che parliamo di categorie, di liberalizzazione, il disarmo multilaterale, ripeto chi scrive, non ho mai detto, mentre quando parliamo di ordini professionali, lì sì, personalmente sono per l'abolizione degli ordini per come li abbiamo adesso, per la liberalizzazione della concorrenza vera tra avvocati, tra notai, che non capisco cosa servono, tra giornalisti, e l'ordine faccia solo e svolga solo un ruolo di censura, di controllo, se proprio deve. Sui taxi la cosa mi entusiasma di meno, nel senso, non è da lì più importante la liberalizzazione del mondo del commercio, a mio avviso, che possono permettere anche di avere servizi migliori al cittadino cliente. Però un conto è dire che la liberalizzazione dei taxi non è forse la chiave di volta per la ripresa, un conto è che i tassisti si mettano a scioperare come cavolo vogliono senza rispettare le regole minime di convivenza civile. Monto sul disarmo. Dal punto di vista dei conti pubblici non occorrono altre manovre. Quello che occorre e che vedrete succedere nelle prossime settimane sono altre operazioni di politica economica, meno indigeste, sono diverse cose: creare più spazi per la concorrenza e per il merito in diversi settori. Si chiamano liberalizzazioni e non ho niente in contrario. Ma liberalizzazioni può sembrare un termine in parte ideologico. Qui si tratta di ridurre quelle protezioni, i diversi modi in cui ogni categoria in Italia, più che in altri paesi, cerca di avvantaggiare chi è incluso nella roccaforte a danno di chi è al di fuori. Io credo che così come nella vita politica negli ultimi mesi abbiamo visto che un certo disarmo bilanciato tra forze politiche che in passato si confrontavano molto aspramente, sì, ha consentito di prendere decisioni in modo pacato e condiviso. Io credo che un certo disarmo multilaterale di tutte le corporazioni in cui viviamo possa consentirci di dare più spazio alla concorrenza, al merito, ai giovani. Così appunto Mario Monti sull'operazione Cortina, che ha significato un'operazione anti-evasione. Ne parliamo alle 18.05, nella seconda ora del programma, ascoltando anche alcuni passaggi. C'è chi dice che sto difendendo i tassisti, minimizzando il ruolo delle liberalizzazioni dei taxi. Ci sono i taxisti che invece dicono che li stiamo attaccando. Va bene così, io non ho mai detto né una cosa né l'altra. Secondo me non è quello un settore chiave, diciamo, nelle liberalizzazioni, però non si può neanche bloccare i passeggeri che arrivano a Linate e alla stazione centrale senza avvisare, con due ore di sciopero che si chiamavano una volta sciopero selvaggio, cioè non annunciato. Almeno dai la possibilità a uno di organizzarsi, no? Due notizie ancora, una riguarda la Fiat, anche di Fiat parleremo più avanti perché c'è il salone di Detroit. Marchionne ha fatto un'intervista ieri sera anche al Wall Street Journal, ha detto la sede della Fiat sarà o a Torino a Detroit, sede unica, e comunque occorre, per un gruppo produttore di auto come il nostro, occorre ripensare l'attaccamento emozionale al proprio paese. Io non so se ci sia un attaccamento emozionale al proprio paese, quello che vedo è un attaccamento ai posti di lavoro degli operai Fiat italiani, visto che la Fiat, diciamo che forse più l'Italia che è stata attaccata emotivamente alla Fiat, avendola aiutata molte volte in questi 20 anni, anche 30. L'Alcoa chiude 3 stabilimenti in Europa e uno in Sardegna, a Porto Vesme, e quindi si riapre la vicenda che abbiamo seguito ricorderete 2 anni fa, lo stabilimento di Porto Vesme, fu il decreto Alcoa, il decreto sull'energia che permetteva di avere un'energia a un costo più basso, però niente, la multinazionale USA vuole completare questo piano prima della metà del 2012 e ridurre la capacità totale di produzione di alluminio primario del 12%, cioè 500.000 di tonnellate. E gli stabilimenti che chiuderà saranno 2 in Spagna e uno a quello famoso di Porto Vesme. Torna anche la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parliamo subito di Europa, di Fiat e di borsa. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Pasti più cari al ristorante della Camera, non sto scherzando, la riapertura dopo la pausa natalizia, deputati, funzionari, giornalisti, parlamentari hanno trovato un ritocco al rialzo dei prezzi delle portate, soprattutto per gli antipasti, primi piatti e contorni. Insomma, la minestra del giorno e il riso in bianco costano 4 euro, costano 2 euro prima di Natale. Tonnarelli con cicoria e salsiccia e penne arrabbiata costano la bellezza di 5 euro. Dura la vita anche per i deputati della Camera. Però questo è un euro in più rispetto a prima di Natale. Quasi raddoppiato il costo della bottiglia d'acqua minerale da 60 centesimi a 1 euro. E il prezzo dei secondi invece, perché sennò veramente uno non ci stava più dentro, è rimasto uguale. Il contorno, prima era compreso nel prezzo, ora si paga a parte la bellezza di 3 euro. Un ricone avaro e vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. E poi l'aliquota al 50% sui ricchi, che non è da noi, è in Gran Bretagna, fu inserita un anno dopo, nel 2009, per trovare risorse, la inserì allora primo ministro Gordon Brown, aliquota al 50% a tutti i redditi in Gran Bretagna sopra le 150.000 sterline, ma anche David Cameron, il neo premier, si è convinto che questa aliquota sia inevitabile. Lo rivela oggi infatti Daily Telegraph. Cameron, nonostante sia del partito conservatore, vuole mantenere questa aliquota al 50%, ma per un motivo molto, molto semplice e concreto: ha portato un sostanziale extragettito, cioè è arrivato nelle casse dello Stato britannico un gettito forte, inatteso, e quindi un toccasana per l'erario. Adesso parliamo non di Gran Bretagna, o meglio anche di Gran Bretagna, ma soprattutto di Francia e Germania. Questa è una settimana densa, questa è anche la prossima, densissima di incontri a livello europeo, che si apre con la doccia fredda di Cameron, visto che parlavamo di Gran Bretagna, il quale ha ribadito che lui la Tobin Tax non la vuole far passare perché colpirebbe la City britannica, teme che se ne vadano le grandi banche, comunque le grandi società della comunità finanziaria britannica, ma intanto mi sembra di aver capito che Angela Merkel e Nicolas Sarkozy anche sulla Tobin Tax, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie, vanno avanti. Dicevo settimana fitta perché poi mercoledì Mario Monti incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi Mario Monti andrà il 18 gennaio a Londra a incontrare David Cameron, e poi vi sarà la settimana dopo l'incontro a Roma, quello annunciato dopo il primo vertice europeo a cui ha preso parte anche Mario Monti, l'incontro a Roma tra Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Mario Monti. Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente di Radio Colle sulle 24 ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Tirano dritti sia Sarkozy che la Merkel? Ma sì, anche se la cancelliera tedesca oggi nella conferenza stampa con il presidente francese ha detto chiaramente di preferire, di volere un intervento di Tobin Tax, una tassazione delle transazioni finanziarie a livello dell'Eurozona quantomeno, non i paesi pochi che ci stanno partono subito per creare il fatto compiuto come vorrebbe o come è sembrato volere Sarkozy in uno scatto di propaganda a metà elettorale e in parte per forzare le decisioni degli altri paesi. Quindi questo era il riferimento quando la Merkel ha detto insomma sarebbe meglio introdurla in Europa 27 e non fare lo strappo con la Gran Bretagna, in sostanza. Esattamente, esattamente. Ecco. Vabbè, non lo strappo con la Gran Bretagna, ormai ha assodato che Londra non sarà della partita. Londra si metterà contro, una decisione a 27 allo stato delle cose è impossibile, a meno che non ci sia una decisione a livello del G20, che rappresenta l'80% delle economie mondiali, ma il G20 è diviso così come è divisa l'Europa su questa questione. Quindi escluso che la Gran Bretagna ci sia, una soluzione può essere trovata dai paesi Eurozona. D'altra parte questa è anche la condizione posta da Monti, che ha cambiato la posizione del governo precedente. Prima Berlusconi era, con lui Tremonti, erano contrari alla Tobin Tax. Tremonti ha una opzione favorevole, purché i paesi non vadano non si rincorrano da soli su questo terreno. Ecco. Sarkozy in sostanza ha voluto fare uno strappo a metà fra l'elettoralistico e per forzare le decisioni degli altri paesi dell'Eurozona. Sì, poi Antonio, c'è il tema, oltre diciamo, alla tassa sulle transazioni finanziarie, c'è il tema che poi è la vera agenda di queste due prossime settimane, ossia cosa l'Italia, lo dico perché insomma dall'Italia trasmettiamo, potrà andare a chiedere a questo punto alla Merkel e a Sarkozy. Mi spiego, se noi dovessimo mantenere fede all'impegno di riduzione del deficit, non ce n'è per nessuno, perché per arrivare al 60% dovremmo ridurre il deficit di 3 punti l'anno, cioè questo vuol dire ammazzare il paese. Dopo il meteo vorrei sapere se tu ritieni che Monti, nell'incontro che avrà prima con la Merkel, poi anche con Sarkozy a Roma, spingerà l'acceleratore per dire: vabbè, adesso abbiamo fatto la manovra, lacrime e sangue, c'è un paese indirizzato col decreto Salva Italia in un certo modo, sto facendo la fase 2, se chiedete altri sacrifici buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. La risposta se me la dai dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi su Cortina, l'operazione della Guardia di Finanza, è andato anche lei a Cortina? Guardate, no, non ci sono andato, comunque questi sono fatti miei, ma il punto non è chi va a Cortina, un posto bellissimo, ma ci mancherebbe. Il problema è chi va a Cortina con un SUV e dichiara 30.000 euro l'ordi l'anno, cioè un quarto, un terzo del valore della macchina che ha, oppure... ha i SUV intestati a società che avevano chiuso in perdita sia nel 2009 che nel 2010, però si poteva tranquillamente comprare un SUV da 70-80 mila euro o in altri casi meno di 50 mila euro lordi di guadagno. Questo è il problema. Cortina, non Cortina, chi se ne frega, il problema è che non si può andare avanti in questo modo. Tutti gli altri cosa hanno da temere? Vanno a Cortina, sciano, dichiarano le loro tasse, fanno dichiarazione dei redditi. Qual è il problema? Non ho veramente capito, ma dopo avremo modo. Invece, Antonio Poglio Salimbeni, secondo te queste due settimane importantissime per l'Italia, oltre che per l'Europa in generale, in queste due settimane Monti cercherà di andare un po' a riscuotere questa maggior fiducia e la manovra che ha messo in piedi, magari posticipando alcuni rientri sul deficit, sul debito, scusami. Dunque, sul debito sicuramente no. Sul debito la situazione è un po' questa. Giustamente Monti rivendica il fatto che il nuovo accordo tra i paesi dell'Eurozona, il cosiddetto patto di bilancio, in inglese Fiscal Compact, che stringe le maglie del governo economico dell'Eurozona, incorpori quanto deciso non 7 anni fa, ma 4 mesi fa, 5 mesi fa dagli stessi governi, per quanto riguarda la valutazione del debito in rapporto al prodotto lordo. Ciò significa che la regola del ventesimo, che significa ridurre di un ventesimo l'anno la parte di debito pubblico eccedente il 60% del prodotto lordo, per l'Italia significherebbe automaticamente, meccanicamente, una manovra da 40-45 miliardi all'anno. Eh sì, perché sono 3 punti. A crescita zero, però, perché quanto più l'economia cresce, quanto meno questo valore, tanto più questo valore si riduce, questo deve essere chiaro. Allora, in sostanza bisogna tenere conto nel valutare la situazione del debito di alcuni fattori che vengono considerati rilevanti. Questo è quanto è stato deciso 4-5 mesi fa. L'Italia vuole che questa regola sia rispettata, perché non è invecchiata dal momento che non è mai neanche neppure stata utilizzata, tanto più che Monti ha appena varato la riforma delle pensioni, che scarica una parte del peso sui conti pubblici futuri, in prospettiva, certo, sul bilancio del carico pensionistico. Questo è il punto. Ha possibilità di trionfare, di affermarsi questa linea? Di certo la Germania su questo appare isolata, ma bisogna stare attenti, perché non possiamo fare come i britannici, che dicono piove sulla Manica, continente sì, isolato, no? No, però è anche vero che c'è un elemento paradossale nel salutarti, lo ricordo ancora una volta, che in questa crisi che sta piegando l'Italia, la Spagna, la Francia stessa dovrà mettere mano a operazioni importanti sul suo deficit, riducendo il welfare, chissà come reagiranno i francesi. L'unico paese che se ne sta avvantaggiando, perché l'euro un po' si indebolisce a 1,27, però i tassi di interesse sono sotto lo zero, è la Germania, cioè in cui i rendimenti oggi hanno toccato i bot a 6 mesi tedeschi, hanno toccato meno 0,01%, per cui paradossalmente la Germania è quella che più si lamenta di questa, e fa bene anche in molti casi, ma è quella che più se ne sta avvantaggiando, Antonio, come mercato. Sì, certo, naturalmente della debolezza del deprezzamento dell'euro si avvantaggiano tutti, anche noi siamo esportatori, noi italiani esportiamo. Il problema è che oggi ho visto che il presidente della dell'Unione Europea, Van Rompuy, ha dichiarato a Copenaghen che appunto, meno male, quasi ha detto meno male che c'è l'euro debole, così rilanciamo la crescita. In effetti il limite c'è un limite al deprezzamento, che quanto più si deprezza, quanto meno gli investimenti in euro diventano restano attraenti per l'investitore, sì. E già abbiamo la crisi del debito sovrano, non è quella la via per recuperare fiducia. Sì, io resto dell'idea personalmente che l'euro a 1,27 sia ancora un euro altissimo, cioè finché non lo vedrò a 1,10, fermo restando che nella sua vita è sceso anche sotto quota 1,1, ma è rimasto anche per lungo tempo 1,10, 1,20, non capisco perché non dobbiamo avere una valuta unica che vale un 30% in più rispetto al rapporto di cambio col dollaro 1,1, e questo per quello che riguarda l'euro, che definire debole 1,2740 mi sembra eccessivo. Hai ragione sulle esportazioni, Antonio, purtroppo però ce la paghiamo con l'inflazione importata, cioè con i beni energetici, dove aumenta leggermente il prezzo. Staremo a vedere, perché ripeto, settimana fittissima di incontri Francia, Germania, Italia, ma anche Italia e Gran Bretagna. Grazie, corrispondente Sole 24 Ore da Bruxelles, Antonio Polesembeni. Grazie a voi. La borsa, vedo moltissimi messaggi. Sì, l'asta è andata a rendimento negativo, l'asta tedesca ha avuto un rendimento inferiore allo zero, vuol dire che sostanzialmente quello che prezza il mercato è che la Germania è così un paese sicuro che io mi posso anche permettere di offrire zero di rendimento, anzi qualcosa in meno, uno 0,01 in meno, per cui lo tieni per 6 mesi e dopo 6 mesi ottieni lo 0,01% in meno. Questo vuol dire rendimento negativo, che sarebbe un'operazione da ubriachi, da pazzi, a meno che uno non dica vabbè, ma intanto i soldi sono sicuri, li parcheggio. Un po' come quando uno li tiene in altre forme di risparmio che non siano quelle tradizionali. Ecco perché si preferisce comprare bot tedeschi a 6 mesi, anche se ci si perde qualcosa, perché non si sa dove metterli i soldi o gli investitori istituzionali in altri paesi dell'area euro. E allora borsa. Monte dei Paschi meno 14,40%, dimostrazione che non c'è solo il tema Unicredit, di cui poi parleremo, che è sotto un aumento di capitale monstro, enorme. Monte dei Paschi meno 14,40%, la Milano è peggiorata nel finale, comunque meno 1,70% contro Parigi che ha perso solo lo 0,30%, Francoforte solo lo 0,6%. E Londra solo lo 0,50%, l'America è anche leggermente positiva. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. E buon anno, Eleonora. Lasciamo stare Unicredit, che sarà nostro approfondimento fra poco, ma Monte dei Paschi, 19 centesimi di euro per azione. Sì, 19 centesimi di euro operazione, ma soprattutto una capitalizzazione di 2,1 miliardi, che è esattamente quanto il Monte dei Paschi Paschi ha incassato a luglio con l'aumento di capitale, quindi sono numeri che fanno riflettere. Ovviamente entro il 20 gennaio la banca deve indicare come rafforzare i propri ratios patrimoniali, che sono stati posti sotto l'indice dell'EBA, l'autorità europea delle banche. I vertici dell'istituto hanno detto che non effettueranno un aumento di capitale, ma la borsa sembra scommettere su altro, ecco perché appunto i titoli sono sono scivolati. Vedremo che cosa succederà da qui al prossimo 20 gennaio. Altri titoli, male anche Mediobanca oggi, meno 6,90%, il Banco Popolare meno 5,30%, Banca Popolare di Milano meno 3,30%, Intesa San Paolo meno 3,20%. Qui difficile giustificare con aumenti di capitale o notizie forti e dirette su questi titoli. La vera notizia forte è che lo spread si è riportato a 531 punti, ecco perché sono penalizzate tutte le banche. Il Monte dei Paschi è penalizzato più di altre, anche perché è una delle banche più esposte proprio sui titoli di Stato, peraltro proprio sui titoli di Stato a lunga scadenza, che sono quelli che accusano le performance peggiori, ma anche le altre banche non stanno messe meglio, ecco perché appunto tutti gli scivoloni, ovviamente i titoli di Stato perdono valore e quindi vanno a impattare direttamente sul valore delle singole banche. Fatto sta che ormai la capitalizzazione complessiva di tutte le banche italiane vale ben poco, probabilmente a questo punto varrà meno di una sola banca tipo BNP Paribas o BPFA. No, qui il rischio poi era scalato, ma questo è un altro discorso. Rapidamente, mi interesserebbe sapere il gruppo Ligresti come è andato, cioè Fonsai, e poi una chiosa finale su Fiat, che è il prossimo tema. Sì, Ligresti ha mantenuto l'andamento dei giorni scorsi, ovvero sia che mentre le fondiarie Asai hanno continuato a perdere terreno e oggi hanno accusato una flessione del 7,3%, visto che appunto si prospetta l'aumento di capitale, le azioni della scatola di controllo, vale a dire le Premafin, sono salite. Sul finale hanno diciamo rallentato il prasso e hanno guadagnato solamente il 3,27%, ma nel durante della seduta avevano registrato un incremento a doppia cifra. Questo perché si scommette sul fatto che i nuovi investitori, Clessidra ha fatto l'offerta, ha manifestato un'offerta, ma anche Unipol ha confermato di avere lo studio una fusione con Fondiare Assai, si pensa che entrino dalla scatola di controllo, ovvero da Premafin, certo, finanziaria. Allora, per quanto riguarda Fiat, oggi è andata male, cioè ha ampliato le perdite soprattutto nel pomeriggio. Che dire, Marchionne ha detto che la 500 negli Stati Uniti è andata peggio delle attese, che effettivamente Fiat era stata troppo ottimista, e si sa che anzi negli anni passati era stato proprio un cavallo di battaglia il lancio della 500. Sì, ne ha vendute 26.000 contro le 50.000 attese, quindi la metà. Comunque di Fiat parliamo perché Marchionne ha detto anche altre cose, di nuovo è tornato sul legame, l'ha chiamato legame affettivo con l'Italia, ne parliamo dopo il traffico. Grazie, onorevole Michele, Radio Colle sulle 24 ore. C'è il salone dell'auto di Detroit e c'è Sergio Marchionne che sta parlando, ha parlato prima ieri, o meglio l'altro ieri sui giornali, con il Detroit Tribune, qualcosa del genere, il giornale di Detroit, e ieri sera invece ha parlato proprio con il Wall Street Journal, dicendo sostanzialmente che ancora non si sa dove sarà la sede del gruppo Fiat Chrysler. Ci colleghiamo con Detroit, dove c'è Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là della nessuna decisione sulla sede, a me, però forse mi sbaglio io, ha fatto impressione sentire questo ragionamento di Marchionne, che pure ha messo difficoltà sulla 500, che pure ha difficoltà nel mercato italiano, nel 2011 meno 10,8% il gruppo Fiat. Cosa vuol dire Marchionne, secondo te, lo conosci bene, quando dice è sbagliato per un gruppo che produce come il nostro, produce auto, il legame affettivo con il proprio paese, cioè l'emotività con il proprio paese? Beh, diciamo che accusarlo di avere già deciso di spostare la sede dall'Italia credo sia sbagliato, però è altrettanto vero che sicuramente se lui dovesse scegliere oggi, la sua preferenza andrebbe agli Stati Uniti, un paese dove si trova meglio, un paese che ritiene più facile per il business, un paese che ritiene più facile per i rapporti con i sindacati, per una serie di motivi, per gli aiuti agli investimenti che la Chrysler ha ricevuto, ricordiamo, abbondantemente dal governo Obama e che poi ha restituito quest'anno. Quindi c'è questo orientamento, c'è un orizzonte di tempo di un paio d'anni e quindi staremo a vedere. Diciamo che Marchionne lancia questi segnali forse anche per indurre un po' Italia, intesa come sistema paese, come rapporti sindacali, come rapporti con la politica, a cambiare atteggiamento. Certo è che sarebbe, visto che comunque Fiat Chrysler è un gruppo ancora controllato per quanto riguarda Fiat, cioè Fiat ha il 58% di Chrysler e la Fiat è controllata al 30% dagli Agnelli con una holding italiana, sarebbe una prima assoluta il trasferimento di una sede a di una società così importante a controllo italiano all'estero. Nel settore auto non è mai successo. Sì, se mi consenti una battuta, Andrea, adesso Marchionne deve anche pensare a fare i modelli, l'ha spiegato, i modelli non stanno andando bene, nemmeno in Italia, meglio vanno in America, ma l'attaccamento emotivo più che della Fiat al proprio paese, a me sembra che sia del paese alla Fiat in questi 15 anni, cioè è vero che Marchionne... Diciamo che oltre a un attaccamento emotivo è anche un attaccamento molto concreto. Ha fatto ragionamento dei figli che a un certo punto possono anche abbandonare i genitori e andarsene, ed è una cosa normale. Però mentre i genitori, se i figli vanno via da casa, continuano a potersi mantenere da soli e hanno il loro reddito, qui se un figlio come la Fiat va via dall'Italia, le conseguenze economiche rischiano di essere pesantemente negative per il nostro paese. Quindi è un genitore che ha molto bisogno che il proprio figlio rimanga in casa. Contrariamente a quello che capita di solito, che uno vorrebbe che se ne andasse, ma non riesce il figlio. No, questo mi ha lasciato molto perplesso, perché non mi sembra che ci sia, ma mi sbaglierò, una... così un aprire la pista continuo all'ipotesi che, insomma, questa cosa dell'attaccamento emotivo io non la capisco. La Fiat, non quando c'era Marchionne, ma è stata a lungo aiutata dai contribuenti italiani, ma anche dalle banche italiane che amano la Fiat pure loro. Ricorderete il salvataggio della loro capitale Intesa San Paolo e Unicredit Monte dei Paschi, no, con il convertendo. Quindi è anche il paese Italia che ha attaccato la Fiat, perché sa cosa rappresenta come occupazione. Non è solo un attaccamento emotivo, cioè non è come perdere un marchio di un vino. Comunque, mi dici in 30 secondi un modello della Fiat presentato a Detroit? Beh sì, stamattina ha presentato la Dodge Dart, che è la prima auto del gruppo Chrysler costruita su una piattaforma del gruppo Fiat, che è quella dell'Alfa Romeo Giulietta, ovviamente rielaborata per gli standard americani, un po' allungata, sappiamo che gli americani piacciono le macchine grandi. È comunque un'auto compatta, un settore in cui la Chrysler finora praticamente non era presente. Ricordiamo che l'anno scorso la Chrysler è andata benissimo, ma ha venduto al 70% circa i light truck, cioè SUV, SUV, pick-up e auto, veicoli di questo tipo. Nelle auto vere e proprie Chrysler è ancora molto debole, e questo modello dovrebbe contribuire a rilanciarla. Grazie Andrea Manan da Detroit GR. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato dell'incontro Angela Merkel Nicolas Sarkozy, che è solo il primo di una lunga serie, come ricordavamo, delle prossime due settimane, e anche di quello che potrebbe o dovrebbe cercare di ottenere a questo punto Mario Monti, e cioè dire stiamo facendo i compiti, voi però non ci chiedete di praticamente di morire mentre studiamo, perché se l'obiettivo è quello di ridurre il debito di 3 punti l'anno per 20 anni non si va da nessuna parte. Ma dicevo, dopo aver parlato di questo, della Fiat, delle dichiarazioni di Marchionne che così, mi hanno lasciato perplesso, questo l'attaccamento emotivo al proprio paese come produttore va ripensato. Cosa è questo attaccamento emotivo? Qua ci sono decine di migliaia di operai della Fiat, che attaccamento emotivo? E adesso parliamo invece dell'incontro tra il ministro Fornero e i sindacati. La CGIL l'ha già incontrata, oggi è la volta della CISL e della UIL. Della UIL poco fa il nostro Vincenzo Mineta ha intervistato il segretario generale della CISL, il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, al termine dell'incontro con il ministro Fornero. 2 ore e mezza di incontro, il commento di Bonanni al microfono appunto del nostro Vincenzo Miglietta. L'incontro è stato sereno e produttivo, abbiamo scambiato opinioni, secondo me utili, propedeutici per una discussione che facciamo tra tutti i soggetti, che prima si fa meglio è, in modo tale da darci un orientamento comune. Quindi il ministro ha ascoltato appunto le opinioni della mia organizzazione, come sta ascoltando e ha ascoltato anche le altre, poi ascolterà gli imprenditori. Il problema è appunto arrivare al più presto a un incontro tra sindacati e imprenditori per dare una direzione alle vicende del lavoro. Sono convinto che avremo nei prossimi giorni, alla fine di questa consultazione preliminare, avremo un tavolo comune. L'atteggiamento da parte nostra è la richiesta di chiarezza da che parte si è, se da parte del lavoro o da parte delle lobby e delle corporazioni. Il primo tempo purtroppo per noi è stato un po' brutto, il secondo tempo spero che si faccia chiarezza. E poi l'articolo 18, ieri ne ha parlato da Fede Fazio anche Mario Monti, ha detto non avere tabù, però sempre sull'articolo 18 Monti era stato molto molto più vago rispetto a quella famosa intervista di Elsa Fornero al Corriere della Sera. Mi riferisco all'intervista, l'abbiamo fatto ascoltare in apertura del programma. L'atteggiamento mentale, detto ieri Monti, è di considerare che niente debba essere un tabù. Bonanni però sempre intervistato poco fa, pochi istanti fa, alla fine dell'incontro con il ministro, dal nostro Vincenzo Miglietta, ha detto non si è parlato di ciò che divide. Non abbiamo parlato di nessuna cosa che porta divisione e di nessuna cosa che porta targhe, tantomeno quelle riconducibili a singoli. Abbiamo parlato di cose, strumenti che già esistono e che devono essere magari rafforzati e che nella storia anche delle relazioni industriali ha trovato l'accordo di tutti i sindacati e le imprese messe insieme, perché credo che in questa fase occorre soprattutto camminare su terreni già sperimentati e voluti da tutti. Ricercare cose che dividono non serve né a noi e né al governo. Va bene, va benissimo Raffaele Bonanni. Io immagino però che quando Mario Monti chiede un disarmo unilaterale delle corporazioni, di tutte le corporazioni sulle liberalizzazioni, beh, chieda un atteggiamento di, così, di comprensione, di propositivo a tutti, forse un po' anche ai sindacati, per carità. Certo, hanno dovuto digerire la riforma delle pensioni, ma insomma... Le tasse, poi passiamo a Unicredit. Allora, per sintetizzare quello che è successo al caso Cortina, che poi non è solo il caso Cortina, perché attenzione, controlli analoghi sono stati fatti anche in altre città, in Liguria, Portofino, Chiavari, Porto Antico di Genova, Santa Margherita Ligure. 150 controlli a sorpresa. Ma insomma, c'è un ascoltatore che scrive, eccola qua: se gli abominevoli benestanti andranno a sciare a St. Moritz invece che a Cortina, voi sarete finalmente felici? A Cortina chi ci andranno? I precari? No, allora qua capiamoci, perché non ho intenzione di fare un 2012 su questo. Nessuno, e mai lo sentirete in questo programma, critica in maniera, come una volta si diceva, catto comunista la ricchezza. Qui quello che è sotto oggetto è l'evasione fiscale, che è un reato. Allora, 80 finanzieri effettuano i controlli in 35 esercizi commerciali di Cortina. Nel giorno dei controlli tutti gli scontrini fiscali aumentano del 400%, gli incassi dei ristoranti sono superiori del 300% rispetto a un anno prima e del 110% rispetto al giorno prima. Cioè hanno beccato il giorno in cui tutti volevano andare al ristorante, tutti volevano andare a mangiare, e anche nelle boutique di lusso più 400%. E più 106% rispetto al giorno prima. I bar, tutti al bar quel giorno lì, raddoppiati gli incassi rispetto alle 24 ore precedenti, perché evidentemente qualcuno sapeva che stava arrivando la finanza. E vabbè, e poi 251 SUV, su 251 SUV 133 erano intestate a persone fisiche, di cui 42 avevano dichiarato meno di 30.000 euro lordi nel 2009 e nel 2010. 30.000 euro lordi, cioè stiamo parlando di 23.000 euro netti, stiamo parlando di 2.000 euro, nemmeno 2.000 euro al mese, e c'hai il SUV e ci vai a Cortina, ma per favore. Allora sì che ci sono i precari a Cortina, ha ragione l'ascoltatore, ci sono i precari a Cortina. Altri 118 superbolidi erano intestati da società che però perdevano. Incredibile, uno compra una macchina di lusso per una società che perde sia nel 2009 che nel 2010. e altri 37 dichiaravano meno di 50.000 euro lordi. Allora, questo è il tema. Se uno non ha niente da nascondere, se dichiara in maniera corretta, o diciamo non si fa, non esagera, abbiamo detto altre volte, cioè, anche in altri paesi ci sono forme di elusione o evasione fiscale, però non con la faccia tosta così, che vai a Cortina, c'è la casa, sei il SUV, 30.000 euro. E intanto però invece i pensionati, i lavoratori dipendenti, ma per favore, sentiamo Monti ieri su questo. Non ho niente contro la magnifica perla delle Dolomiti. Operazioni come quella possono avere un loro significato nell'ambito di una lotta seria contro l'evasione fiscale. Bisogna fare due cose che possono sembrare contraddittorie. L'una, rispettare la ricchezza. La ricchezza è un valore. Al tempo stesso lotta senza quartiere contro l'evasione fiscale. La prima restituzione è pagare le tasse. La prima restituzione è pagare le tasse. Ecco, poi c'è anche chi mi scrive: vede, lei non ha capito che se in Italia non ci fosse l'evasione fiscale non ci sarebbero nemmeno i ricchi, il che starebbe a dire che tutti i ricchi sono evasori, e non è così, perché quando andiamo a vedere le dichiarazioni dei redditi scopriamo che ci sono i ricchi in questo paese, ci sono le persone che guadagnano da 150.000 euro in su, o anche da 120.000 euro in su, ammesso che siano ricchi ricchi, sono lo 0,26%, cioè 105.000 persone. Quelli che guadagnano, diciamo, da 100.000 euro lordi in su sono in tutto 400.000 persone. Peccato che 330.000 siano pensionati e lavoratori dipendenti. Allora, il problema sono gli autonomi, che dichiarano niente rispetto a quello che è il loro reddito. Non diciamo cavolate, su. E negli altri paesi allora cosa c'è? Non ci sono i ricchi perché ci sono le tasse. Da noi le tasse le puoi abbassare, soprattutto sul lavoratore, se becchi un po' di più sull'evasione. Allora sì, lì ha un senso fare un'operazione di riduzione del cuneo fiscale. E Befera, il temuto Befera, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentiamolo sull'idea che è necessario incutere agli evasori un sano timore. E come dargli torto? Come recupero da controllo, quindi a posteriori, noi nel 2011 supereremo gli 11 miliardi e contiamo di farne un po' di più nel 2012, ma la parte più importante del recupero è il versamento spontaneo delle imposte, cioè i soggetti che a seguito delle nostre azioni alzano l'asticella di quanto dichiarano e quanto pagano in autotassazione. Questa è la parte più importante. Cioè senza neppure che voi interveniate o gli contestiate qualcosa? No, perché pensi, noi abbiamo di fronte 40 milioni di contribuenti e noi siamo 32 mila, di cui soltanto una parte è detta al controllo. Quindi è necessario incutere un sano timore. Così appunto Attilio Befera, questa mattina ospite di Maurizio Pietro su Canale 5. Ancora trovo invece corretto chi dice: vabbè, i controlli fateli dovunque, fateli anche al sud, non solo al nord, non che il sud evada di più, probabilmente in proporzione alla ricchezza prodotta evade di meno. Però fateli anche al sud e gli scontrini chiedeteli a tutti. Cioè, Cortina va bene come esempio, poi insomma lì si concentrano anche persone con alto reddito e quindi probabilmente anche l'evasione, però fateli dappertutto, se no veramente, ecco, lì diventa meno giustificabile. Dov'era la Guardia di Finanza in questi mesi e in questi anni? Questa è una bella domanda, però non c'ho risposta e quindi lancio il traffico. ...18-19 minuti... adesso parliamo di Unicredit. C'è chi dice: la smetta di dire stra, i veri criminali sono lo Stato e gli enti locali che bruciano miliardi e miliardi. Questo si chiama benaltrismo. Allora, abbiamo sempre detto che la pubblica amministrazione deve spendere meglio. Noi non spendiamo di più di altri paesi, spendiamo male, cioè spendiamo poco in investimenti e molto in spesa corrente, stipendi, consulenze, gli amici e le assunzioni. Questo è il problema, ma ci mancherebbe, ma non è che questo giustifichi dichiarare 40.000 euro e girare con SUV a Cortina, perché non ci siamo capiti su questo. Dopodiché, se c'è chi continua a pensare che debbano pagare sempre gli altri, vabbè, auguri. Vediamo invece che cosa e quanto stanno pagando gli azionisti di Unicredit, che sono oggettivamente spaventati. Il titolo ha perso, se lo guardiamo da fine da Natale, il 60%, se lo guardiamo negli ultimi giorni, il 40%. oggi ha perso un altro 12,81%, chiude a 2,28 euro, però il prezzo dell'aumento di capitale, cioè cui verranno distribuite le nuove azioni, è 1,943 euro, e se io non ho capito male lì dovrà scendere prima o poi il prezzo, o comunque andrà lì vicino, siamo a 2,280 euro, insomma, rispetto ai 6 euro, vado a memoria, di Natale 2011. Ne parliamo tra un secondo. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Antonella Olivieri ha scritto una bellissima lettera al risparmiatore sul Sole 24 Ore di domenica, lo potete trovare anche online, in cui spiega due passaggi. Cioè, il primo, che cosa è questa operazione, che in realtà non è da 7 miliardi e mezzo, è da 10 miliardi, però il vero aumento è 7 miliardi e mezzo. Intanto, Antonella, buonasera. Buonasera. Che è un'operazione che per metà dell'importo verrà assorbita dal mercato retail, cioè da tutti quelli che hanno le azioni, e dagli investitori istituzionali. Allora, partiamo dalla prima domanda: il perché di questo forte sconto, meno 43% rispetto al prezzo teorico del titolo dopo lo stacco del dividendo? Ma diciamo che in questo periodo tutte quante le banche hanno offerto delle azioni con lo sconto, facendo un aumento di capitale. In realtà alla fine la torta è sempre quella. Nel senso, noi al 3 gennaio avevamo una capitalizzazione di Unicredit che era di 12 miliardi e rotti, e ci si aggiungono i 7 miliardi e mezzo di aumento di capitale, si arriva a poco meno di 20 miliardi. Che il prezzo unitario delle azioni sia di 1 euro, 2 euro, 3 euro non cambia nulla, alla fine sempre intorno ai 20 miliardi dovrà essere la capitalizzazione, per dire che l'aumento di capitale è stato neutro. Lo si offre a sconto perché diciamo, si offre la prospettiva di investire in un titolo che può rendere di più. Certo, questo non compensa la minusvalenza sul prezzo delle azioni che ha subito chi, per esempio, aveva le azioni Unicredit al momento in cui c'è stata la fusione con Capitalia. Lì parliamo di 7 euro delle vecchie azioni, che vuol dire 70 euro di oggi. Certo. Allora, questo per dire, traduco anche se non ce n'è bisogno, che chi aveva le azioni allora, quando insomma Matteo Arpe veniva osannato, giustamente, anche insomma, Presidente Geronzi, la fusione, Capitale, Profumo, Alessandro il Grande, la fusione è... Chi aveva le azioni allora ha perso parecchio. Mi dammi la proporzione, da 70 a 7? No, siamo da 70 a 2,7. Scusami, a 2,7. Per cui insomma, parecchio è un eufemismo. Quello che vorrei capire però sono due cose. Uno, perché comunque il titolo perde più, e questo è innegabile, del valore dell'aumento del capitale, cioè dove va a posizionarsi. Due, tu scrivi giustamente, attenzione, c'è nel progetto, perché uno non fa un aumento di capitale così, dice datemi i soldi, grazie, arrivederci, ci sono attese di rendimenti come dividendi, insomma, che sono del 15% nel 2013 e del 22% nel 2015. Allora uno magari dice, beh, ci sto perdendo, però... Allora, il primo aspetto, perché il titolo va, tra virgolette, se mi esprimo male, più giù di quello che dovrebbe, e se, pur restando il fatto che quando fai un aumento di capitale il titolo scende, e secondo aspetto, come fa Unicredit a dire che avrà questo dividendo così, insomma, interessante, se non quasi, quasi raro? Dunque, chiariamo il primo concetto. Perché il titolo scende? Intanto sta scendendo anche più di quello che dovrebbe a questo punto. Quindi vuol dire, senz'altro oggi lo possiamo dire, che il mercato sta vendendo e non vuole sottoscrivere l'aumento di capitale. Perché l'aumento di capitale è molto grosso, il momento è molto difficile, e evidentemente non bastano neppure le prospettive di rendimento a doppia cifra di cui parlavi prima a convincere i sottoscrittori e gli azionisti a sottoscrivere. Ma in ogni caso, fino a venerdì, diciamo, la discesa del titolo ci stava, nel senso, è come avere una torta, tu la ampli un po', una torta di 12 miliardi, la ampli di altri di altri 7 miliardi e mezzo, però emetti un numero di titoli doppio rispetto a quello precedente, quindi ti trovi dopo l'aumento di capitale avere tre titoli al posto di uno. È chiaro che il valore unitario del titolo è inferiore a quello che era prima, perché la torta non si è ampliata tanto da triplicare il valore delle azioni. È chiaro. Però questo tu ricordavi fino a venerdì. Io ripeto, non ho fatto nessun calcolo in diretta. A naso mi sembra che stia perdendo più di quello, esatto, che dovrebbe. Vuol dire che se tu fai l'aumento di capitale, uno fa due calcoli, allora avevo un'azione, me ne dai due, tra virgolette mi si dimezza il valore dell'azione, e li dovrebbe collocarsi più o meno facendo le varie differenze, l'azione che avevo prima, l'azione che adesso, si dovrebbe collocare il livello del prezzo. Mi sembra che stia scendendo di più, e tu ci hai risposto: non c'è tutta questa voglia, soprattutto degli investitori internazionali, aggiungo io, di mettere soldi in Unicredito. Esatto. E allora la domanda suppletiva è: e se non venisse sottoscritto tutto? Se non venisse sottoscritto dal mercato, c'è il consorzio di collocamento delle banche, che sono tante, che hanno comunque dato garanzia che questi soldi in Unicredito arriveranno. E quindi significa che le banche si accolleranno i titoli inoptati, dopodiché evidentemente li scaricheranno sul mercato a rate, che vuol dire che il titolo, se l'aumento di capitale non andrà bene, è destinato a soffrire ancora parecchio, perché man mano le banche cercheranno di liberarsi vendendo le azioni che hanno. E lì si rischia invece l'effetto, diciamo, la spirale. Terza domanda che ti avevo fatto: come mai Unicredito, comunque Ghizzoni, promette il 15% di dividendo, quindi di rendimento per chi ha le azioni nel 2013, addirittura il 20% nel 2014, ecco, 2015. È una promessa implicita, nel senso che viene dalle previsioni di utile che hanno che Unicredito ha messo nel piano. E per esempio nel 2015 dice: arriveremo a fare 6 miliardi e mezzo di utili, quasi come tutto l'aumento di capitale. Mm-hmm. Di questi 6 miliardi e mezzo di utili ne distribuiremo il 39%. Allora, se io faccio il 39% di 6 miliardi e mezzo e li divido per il numero delle nuove azioni emesse rispetto al prezzo a cui sono offerte queste azioni, cioè 1,9 euro circa, ne deriva un rendimento superiore al 20%, ma questo solo sulle nuove azioni e solo se verranno rispettati i programmi. Ecco, si deve preoccupare, e concludiamo perché siamo già in sigla, chi ha le azioni secondo te in questo momento, naturalmente, perché poi la gente questo vuole sapere, perché l'aumento di capitale te lo becchi, non è che lo scegli in questo caso. Certo, e certo non è mai piacevole quando invece di guadagnare viene chiesto all'azionista di mettere altri soldi. È vero che in una situazione del genere, diciamo, a questo punto si è in ballo e conviene ballare, perché perlomeno sulle nuove azioni si ottiene un rendimento interessante se è credibile il piano di Unicredito. Staremo a vedere. Io voglio capire, però a questo punto mi sembra anche dalla tua analisi che sarà fondamentale capire quando e se si ferma questo calo superiore, diciamo, a quello fisiologico dovuto all'aumento di capitale, cioè perché poi l'aumento di capitale lo devono sottoscrivere non solo i risparmiatori italiani, ma anche e soprattutto i grandi investitori internazionali. Grazie per oggi a Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.